Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe. Ça fait déjà un femme bail. Ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu. Ce curieux sourire qui m'avait tant plu. Sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant. L'alcol. Anche noi potremmo dire Giuseppe Sanson l'avevamo detto, non come Concita De Gregorio, che rimaneva perplessa. Non me la voglio prendere direttamente, ma visto che oggi è la puntata sansonnica dedicata all'analisi della società attraverso il cinema, devo dire con soddisfazione, con divertimento, ma non ci vorrà nemmeno tanto, bastava guardare i propri figli, darsi un'occhiata in giro. Anche noi avevamo previsto qualche tempo fa, ma ne parlammo quasi l'anno scorso, all'altra versione, che i soliti idioti, che termineranno la loro fortunatissima parabola con la uscita cinematografica, rappresentavano comunque uno spaccato seppur transeunte della società. Il film di Biggio Mandelli, soltanto nei primi giorni, ha incassato qualcosa come 4 milioni e mezzo, con una media copia impressionante, 9.458. Poi mi spiegherete, Sansonna, cosa vuol dire. Quindi ha surclassato tutte le rassegne del cinema, tutti i film strafighetti, tutte le previsioni, le vicende di Che cazzo Gianluca, che mi sento dire ormai 70 volte al minuto naturalmente, hanno appassionato gli italiani. Ma perché? Questo è un film che nasce da un passaparola su YouTube. I ragazzi vi sguardavano dei pezzettini di sketch che andavano in piccoli circuiti televisivi, poi via via sono stati presi dalla MTV, poi sono passati in altri circuiti, poi sono talmente entrati nell'immaginario comune che un produttore ha pensato di farci un film. Ha fatto un film e ha radicalizzato quello che era un'intuizione, una lettura trasversale della società con tutte le sue ipocrisie, lo abbiamo già detto, i pretini che fanno la campagna promozionale per il Vaticano per ridare spessore all'idea del cattolicesimo che si è un po' appannata rispetto ai nuovi culti, i due terrificanti bambinelli che escono di casa per fare le messe nere per drogarsi, i genitori dicono mi raccomando torna presto, sì sì mamma tranquilla vado soltanto a farmi possedere dal demonio e torno. La coppia omosessuale che vuole un figlio vanno a fare il test di gravidanza, tutte cose politicamente scorrettissime che però nel film si sono viste soltanto accennate. È un film un po' paraculetto, hanno preso soltanto la cosa più gretta, più triviale, più volgare, un rapporto di un padre molto berlusconiano nei confronti di un povero figlio studioso. Buongiorno papà. Affanculo Gianluca. Alello, fammi una colazione di campioni. Negroni per il dottor Ruggero. Non ti ricordi che giorno è oggi? C'è il matrimonio. Vestiti, dai cazzo! Che me ci devo sposare io con qua busta di piscio dalla ragazza tua? Dai cazzo! Io non c'ho un figlio, non è figlio, è un accrocchio di cromosomi a forma di ricoglionito. Ma perché c'ho un figlio così? Papà, ma hai chiesto te di cambiare il succo di mela con 40 casse di whisky? Passamelo. Oh, tu. Un attimo e sono subito da lei. È anche comprensibile perché ha avuto successo, finalmente qualcuno dice le cose come stanno. Qual è la generazione che tiene forte, saldamente il timone in questo paese e qual è la spaventata, sparuta, sprovveduta generazione dei giovani, dei precari, dei protestanti che dovrebbero in qualche protestatori, diciamo, va? Che dovrebbero in qualche maniera presentare un'alternativa, sono talmente schiacciati, frantumati, risucchiati dai precedenti che non possono farlo. Ecco, noi prendiamo i soliti idioti di cui Giuseppe Sanson darà la sua lettura adesso come case history, come tema fondamentale di imprevedibile successo cinematografico, per dimostrare al contrario quali sono i film che ci hanno in realtà sfrantumato le gonadi, ma di cui abbiamo necessariamente dovuto avere qualche cognizione, quindi farci qualche russata in sala cinematografica, perché se non l'avevi visti non potevi esistere. Giuseppe. Oh, parlando dei soliti idioti, è curioso come si sia registrato per la prima volta il fenomeno epocale, il fenomeno inverso, cioè da tormentone di YouTube si approda alla condensazione in un film, laddove per esempio i film di Verdone o le grandi battute di Fantozzi sono stati smembrati da YouTube e diventano qualcosa da ripetere all'infinito. Cioè per la prima volta si segna un percorso completamente diverso, sicuramente in maniera... Un successo si produce per partenogenesi da YouTube, che è una cosa che non era mai successo. Sì, e poi sicuramente calca la mano su alcune figure piuttosto stereotipate, molto caricate di questo padre appunto violentissimo, triviale, che va oltre qualsiasi appunto verdonizzazione dei genitori, del rapporto genitori-figli, estremizza il tutto in un paese appunto in cui... Però mi dispiace una cosa, Giuseppe, dobbiamo dirlo, la versione cinematografica è molto edulcorata. Il telefilm era veramente crudelmente, spietatamente cattivo e realistico. Qua ci hanno dato una pennellatina di l'hanno trasformato in un cattivo televisivamente accettabile. Quando ho visto Ruggero e Gianluca presentarsi dalla Marcuzzi a fare la promozione al Grande Fratello, ho capito, sì, bello, tutti conosceranno i soliti idioti, ma viva la faccia, è la fine dei soliti idioti. È perché appunto nel terreno ancora parzialmente vergine della rete, appunto dei social network, di YouTube, c'è ancora la possibilità appunto di lanciare schegge di incandescenza virale, realmente virale, al vetriolo, che possono evidentemente nuocere ancora qualcuno. Invece il film deve ricomporre, deve ricompattare. C'è una scena terrificante, della cosa più politicamente scorretta. Sono due, una è quella dei gay. Prova a fare un film in cui si vede la coppia gay ridicolizzata che vanno a partorire, la donna di due, capito, vorrebbe partorire, quindi finge una gravidanza isterica, si fanno i vari test, e ancora di più la scena del Vaticano. C'è una scena in cui si raffigurano i fantastici orinatoi del Vaticano e si immagina, te lo immagina proprio barocchi con luci, incense, dove entrano i cardinali, escono e fanno la pipì come succede nelle stazioni, nei caselli delle autostrade. A un certo punto entrano questi due pretini che devono organizzare il marketing della chiesa, discutono, e mentre loro stanno discutendo entra il Papa, e il Papa, siede il Papa, si appoggia lì e fa quello che fa ogni uomo, e questi due, mentre lui è in questa papale funzione, lo tartassano lanciando i loro slogan terrificanti per rilanciare il Vaticano. A un certo punto il Papa si arrabbia tantissimo, una scena che in un film avrebbe fatto levare gli scudi di mezza Italia, ma in un telefilm su YouTube fanno tutti finta che non accada. Pensa ai problemi che ha avuto il Papocchio all'epoca, appunto, che era molto più edulcorato, sicuramente più goliare, dico, più leggero rispetto a queste scene che descrivi, insomma, sul Furie. 800 24 00 24. Mauro, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei ha passato la triste vicenda dei film d'autore. Sì, ho vissuto un'era all'inizio degli anni 80, io ed un manipolo di amici, che abbiamo vissuto un periodo, un'era di costrizione gonadica d'autore. Sì, però se non si passava attraverso la fase della costrizione gonadica del film d'autore, non c'era poi la fase della liberazione gonadica, cioè di poter avere degli argomenti di discussione con le nostre coetanee, compagne, ragazze. Sì, è stato un modo per rileggere in un certo una risposta al riflusso sintetico. Allora noi a questo riflusso sintetico cercavamo di rispondere attraverso un'introspezione così un po' naif. Cioè nessuno ve la dava se non vedevate Citto Maselli, avete argomenti per discutere, diciamo la verità. Sì, poi quello era il problema. Sì, poi nell'arco degli anni, di pochi anni però molto intensi, carichi di visioni multiple, ci sono stati momenti grotteschi, come ad esempio la visione di Nostalgia di Tarkovsky, in cui c'è una scena praticamente in cui il protagonista cammina per 10 minuti buoni tenendo una candela in una piscina, in un fondo di una piscina di una sorgente termale, e ovviamente lì ci sono stati crolli. Ma voi dovete fingere l'estasi in quel momento, perché questa era una scena da cui discutere per settimane poi. Sì, però lì effettivamente la nostra inadeguatezza è emersa prepotentemente, ci sono state persone che hanno iniziato a russare nella sala, quindi è stato un momento veramente... Conosco bene questo tipo di disagio, che ho messo in imbarazzo più di una persona con questa mia estrinsecazione, di cui conosce bene lo spessore il pubblico di Melog. 800 24 00 24. Iniziamo quindi con la rassegna dei film che abbiamo voluto subire per essere all'altezza del dibattito culturale della nostra contemporaneità. Senti, e tu quando non prendi la macchina ai poliziotti in servizio, che fai in Avide? Io studio lettere e filosofia. Ah. Di sera invece lavoro come cassiera in un cinema d'essè. Un cinema di chi? Un cinema d'essè. E che? Un cinema d'impegno. Un cineclub. Capito? Ah, a me mi piacciono più i western. Noi invece facciamo delle rassegne. Adesso, per esempio, facciamo tutto un ciclo dedicato al cinema polacco. Mm. Quello di stasera è di Damianowski. Dura 5 ore e mezzo. Ah. E si intitola Rottura. Dei coglioni. 800 24 00 24. Ermonnezza ha sintetizzato alla nuce qual è il problema. Vediamo se Giuseppe Sansone riesce a darci un quadro di inquadramento storico della necessità della frantumazione gonadica cinematografica come acquisizione e usurpazione di uno status sociale. Beh, ha subito varie fasi, insomma, negli anni 60-70 i dibattiti, i post-dibattiti erano all'ordine del giorno, però io vorrei partire da un dato biografico, cioè da io quindicenne, primi anni 90, nel deserto culturale di Bari, arrivano i biglietti a scuola per la rassegna di Fassbinder, quindi il massimo che si poteva vedere a Bari era... Si vede che sei giovane però, io sì, Fassbinder sì. Mi ha frantumato che ero già in età quasi adulta. Però io appunto vengo dopo, iniziale, e c'era il massimo film che potevi vedere, la Guardia del Corpo con Kevin Costner, e arrivano questi biglietti e noi per fare colpo sulle ragazzine della classe andiamo tutti a vedere Nessuna festa per la morte del cane di Satana di Rainer Werner Fassbinder, cioè c'eravamo solo noi al cinema, il cinema completamente deserto. Oppure più avanti, nei primi anni 2000, porto una ragazza che stava facendo un dottorato, quindi per cercare di conquistarla porto a vedere Racconti della luna pallida d'agosto di Kenji Mizoguchi, no? Film, e usciamo e poi scopro che in realtà le piacevano gli 883, insomma era tutt'altro, non c'era bisogno. Avevi fallito. Sì, ero fuori tempo, ero fuori sincrono, ero appunto anacronistico rispetto a quello che stava accadendo. 800240024, quante volte anche a voi è accaduto di dover subire cose del genere? Quante volte avete bleffato, simulato, avete fatto finta, immaginato? Quanto avete represso la russata? Quanto avete represso la voglia di scappare via? Quanto siete state partecipe a dibattiti di film che nemmeno avete visto? Io su Fassbinder ho fatto lunghe chiacchierate, avendo visto pochissimi film e mai uno per intero, giuro. Massimo, buongiorno. Buongiorno. Ah, io invece voglio spezzare una lancia a favore di tutti i film d'autore, da Fassbinder a Stanley Kubrick. Vabbè, grazie, Piffero, scusi. Ma se noi citiamo film d'autore, Kubrick è un autore. Ma noi citiamo film d'autore che sfracassano le gonadi. Non mi citi Kubrick, che non è facciamo... Kubrick è il regista più geniale del cinema commerciale. Ma posso citare Altman? Sì. Già ci siamo, già cominciamo a esserci. Poi anche Fassbinder comunque ha fatto delle ha fatto bei film. In realtà questi film lasciavano aprivano delle porte anche laddove appunto non erano forse neanche l'età per coglierli, per qualcuno sicuramente... si chiusero per sempre, per altri invece hanno avuto costanza, poi hanno visto bei film, ha fatto anche film interessanti. Carelle è un capolavoro, Carelle è un assoluto, bel film, certo. Poi anche quello andava visto perché bisognava dire di essere E come si portavano come delle sciarpe come d'autore appunto. Diciamo nella sua visione ottimistica del film d'autore, però sia gentile, mi mostri il lato oscuro di questo, perché abbiamo avuto delle cose totalmente inguardabili che galleggiavano nel consenso, una serie di registi greci che non voglio nominare perché ho degli amici coinvolti. Puoi citarle, uno è famoso, Angelopoulos. Angelopoulos. Ma pensi, per i suoi piani sequenza. E il piano sequenza è infinito anche. In Celebrity c'è una scena di Woody Allen in cui vanno tutti a vedere questo film di questo regista greco che è Papadakis, e si vede questo lungo piano sequenza con due, uno col pullover annodato abbracciato alla donna su questa spiaggia, e questo lunghissimo piano sequenza. Infatti, però sono stati argomenti di estasi verbale per generazioni i film di Angelopoulos, diciamo la verità. È l'autoinganno. A volte è sicuro, è successo qualcosa dentro la nostra cultura che un po' ci ha rovinato, nel senso di dire che questi film erano dei capolavori assoluti, erano delle cose, forse siamo andati oltre, però devo dire che quel cinema lì ha permesso di liberare tante risorse, liberare tante idee, di far sì che il cinema potesse raccontare anche la società da vari punti di vista. Quindi io non vorrei mettere in dubbio questa cosa, cioè il cinema d'autore è stata una grande forza nel racconto della nostra società e non solo della nostra società. Quindi io non lo se c'è una non cosa lo... se c'è una cosa che abbiamo in grandissima ripugnanza è fare proprio atteggiamenti censori. Ben vengano, siamo contenti, ci ha divertito tutto sommato, molti loro hanno approfittato anche del momento di catalessi momentanea per fare innominabili atti durante questi lunghi piani in sequenza. È giusto che siano esistiti, ma è giusto anche prendere un po' in giro il consenso generalizzato di coloro che li portano sugli altari, al di là, oltre il loro valore oggettivo. Poi è il tempo anche che attribuisce valore, perché tornando ai soliti idioti, qualcuno diceva, guarda, anche un film come Arrapao fece milioni di botteghino, però oggi se dico Arrapao nessuno si ricorda cosa fosse. Quindi in fondo è la storia, alcuni film di Kurosawa che sono indubbiamente un po' pesanti, però ancora li ricordo con grande emozione, perché mi vedevo le rassegne di Kurosawa e ancora oggi mio figlio, che è appassionato di Giappone, se li riguarda, e non sono certo film dai piani sequenza al fulmicotone. Venere bionda. E merda. Marlene Dietrich, 1932. Lo so questo. Penitenza. Se insisti. Ti sfido a fare adesso, davanti a noi, quello che ti ho visto fare. Davanti a lei. Chi? Non so di cosa stai parlando. Oh, sì che lo sai, cucciolotto. Penitenza. Ma quanto sei stronza. Stronza e sadica. Hai intenzione di fare la penitenza o no? Molto bene. Voglio che lo fai come quando pensavi che non ti vedesse nessuno. Qui c'era una rappresentazione concreta, la metafora acquisiva è una sua drammatica rappresentazione, l'atto innominabile, autolimitatorio ed esaltatorio che è costretto a fare questo ragazzo, in realtà sintetizza quello che è il senso generale del film, un grande pippone. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di The Dreamers di Bernardo Bertolucci, ovvero diventare celebrati maestri per poter spacciare per grande riflessione epocale un po' di fisiologico voyeurismo senile, ovvero cioè, si raccontava il 68 attraverso i corpi magnifici di questi tre ragazzi, appunto, che sono Eva Green, Michael Pitt e Louis Garrel, e lui li spia in questa sorta di rapporto incestuoso. Loro sono due fratelli, poi arriva questo americano, c'è questo intreccio, passano il loro tempo a ammazzarsi di canne nella vasca, a guardare film alla Cinematheque, e poi a un certo punto irrompe il 68 in forma di pietra che spacca il vetro del loro salotto borghese mentre hanno accampato una tenda all'interno del salotto di casa. È un fantastico film. Max, buongiorno. Buongiorno. Lei è segnato anche nel nome da questa epoca. È vero. L'hanno chiamata Max. Perché l'hanno chiamata Max? No, è un'abbreviazione. È un'abbreviazione. Ah, beh, perché avevo scritto Max. Avanti. Ascolti, io vidi Il grande silenzio, di cui fortunatamente non ricordo il regista, e resistetti fino alla fine solo perché ero convinto che prima o poi avrebbero parlato questi frati, che invece poi come la barzelletta della grande cavalcata, è il grande silenzio, è il grande silenzio. Ho capito, però insomma quello era troppo, non, effettivamente, però ecco, forse questo film, diciamo, a questo film hanno resistito in tanti perché forse come me pensavano che prima o poi... Ma perché c'era andato a vedere questo film? Io ero incuriosito da dei promo che avevo visto in TV e quindi pensavo fosse qualcosa di diverso. Invece poi quando mi sono trovato lì, ogni minuto che passava maturavo la consapevolezza che ero... Guardi, leggo una critica, ho preso una critica a caso, presa in internet. In un tempo di cinema chiassosamente sonoro, che tutto riempie tra bocca, diventa necessario sperimentare il silenzio. Quello grande silente registrato nel monastero certosino della Grande Chartreuse, situato sulle montagne vicine a Grenoble, salire sulle Alpi francesi con la macchina presa, è stato del regista tedesco Philipp Gröning, che per 19 anni ha cullato il desiderio di realizzare un documentario sulla vita dei monaci e sul tempo. Beh, lei era stato attratto da questa critica probabilmente. No, se avessi letto questa forse non sarei andato, ma comunque il fatto che... Ma allora che c'è andato a fare? Un film di frati che stanno zitti, mi spiega? No, non era chiaro quando ho sentito questi promo. Ma da solo c'è andato? Sì, sono andato da solo. Non c'era neanche un secondo fine, non c'era anche l'alibi di un secondo fine. Effettivamente nessuno che mi avesse invitato. Sono andato da solo. Era un momento difficile della sua vita, cercava un'alternativa alla distruzione della contemporaneità, alla dissoluzione, alla mancanza di obiettivi. Ma guardi, poi comunque mi sono consolato col fatto che un signore per 19 anni con la telecamera era andato a fare quelle riprese, quindi alla fine insomma, c'è chi sta peggio di me, ecco, tutto. Va bene. Ma in realtà sono esperienze estreme che hanno anche il loro fascino, cioè per esempio sono i film di Bellatar. A Perugia dicono sto coi frati e zappo l'orto. Però c'è un nesso a tutto, si ricompone. Vuol dire mi adeguo, dice sto in questo habitat e quindi mi adeguo. Cioè sto coi frati e zappo l'orto. Cioè tu perché lavori per la Mondadori, Berlusconi? Sto coi frati e zappo l'orto, questa è la... Sì, però ti immergi appunto in questi silenzi eterni. Quindi il cinema in effetti può sperimentare tutto e tutto può avere un senso. L'importante è che probabilmente questa è un'esperienza molto cruda e estrema che ha fatto questo regista. Non è il compiacimento estetizzante. Diamo la linea all'informazione della borsa. Noi stiamo qua a cazzeggiare, ma abbiamo sentito la breaking news che forse è il caso di riflettere un po' sull'attualità. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Ma ti avevo detto di aspettarmi giù e levarti i vestiti. Sei tutto bagnato, levati la giacca, su. Anche la camicia è tutta bagnata. Dai, aiutami. Tieni questa, io vado a prenderti degli altri vestiti, ma aspettami. No, non te ne andare, Sara. No, ma io vado a prendere solo Sara, i vestiti. Sara, ti prego, non te ne andare. Quando non ci sei, io sento come se non riesco a respirare. Ti prego, non te ne andare, Sara. Va bene, non me ne vado. Prima. Sara, ti prego, non mi lasciare. Sì, sto qua. Non mi lasciare, Sara. No, non ti lascio, sì, non ti preoccupare. Scusa un attimo, Giuseppe Sansonna, ma sono rimasto senza parole perché mi sono ricordato i momenti fantastici in cui anch'io ho passato l'esperienza di questa fase, di questo grande regista. Riprendiamo il punto, stiamo parlando del film Scassaballe cui siamo stati costretti a osservare per avere uno stato sociale, ma questo non vuol dire che denigriamo la cinematografia impegnata in nome di Bombolo, Pirino, Alvaro Vitali e via dicendo. Semplicemente cerchiamo una giusta mediazione fra un film in cui si nota che c'è la necessità, il desiderio di far passare dei significati che vanno oltre le immagini, il senso, l'intrattenimento, il passare un ora tranquillamente, e dei film che in realtà sono stati ipervalutati. Ciò che è sgradevole è la mistificazione, cioè lo spacciare, di cosa lo spacciare adesso? Per autoriale, per l'appunto, e questo è uno spaccio puro, cioè è Cuore sacro di Özpetek, che sciaguratamente si ispira a Europa 51 di Rossellini, qui la sogliola sbrinata Barbara Bobulova attraversa il film per come uno squalo dell'industria che diventa francescana, come in teorema si spoglierà di tutti i vestiti nel sottopassaggio della stazione, arrivando nuda come Girotti nel finale teorema. Qui la vediamo nelle penombre sussurrate che servono per coprire quanto si è cani, no? Quel sussurrare in penombra, con questo barbone che sembra uscito da uno spot della celebre compagnia delle Indie. Insomma, sembra Joaquin Cortés e non ha nulla del barbone, e quindi vivono questo momento di intimità. Lei lo abbraccia come nella pietà francescana, insomma, e poi tutto va in reticenza, in dissolvenza. È un gesto fantastico, pensa, lei abbraccia un barbone. Lo abbraccia, lo accarezza. Barbone uguale a Cortez. Che lui non aveva. Sì, certo, naturalmente sotto Joaquin Cortez, non le croste di un vero, autentico, sincero barbone, che ne trovate quanti ne volete, belli intrisi della loro pipì degli ultimi 50 anni alla stazione Termini. Augusto. Buongiorno. Sì. Telefono da Modena, se posso essere licenzioso per un attimo, rifacendo quanto dicevate prima a proposito di Dreamers di Bertolucci, volevo citare una frase del mio compianto concittadino Edmondo Berselli, che scrisse che Bertolucci aveva dipinto 68 mostrando più che altro dei 69. Detto questo... Sì, diciamo rendeva bene l'idea, il grande Berselli, scomparso nemmeno molto tempo fa, aveva avuto il coraggio e l'ardire di intaccare questo immarcescibile luogo comune. Il libro venerato mai. Detto questo, volevo citare un paio di film che hanno fatto parte del mio personale martellamento gonatico, come dice lei, ovvero credo L'amico della mia amica dell'immenso Eric Rohmer. E io vidi in un cinemino. Sansonna si è alzato in piedi. Sì, sì. Sansonna si è alzato in piedi. No, solo condivido in pieno. Un film che mi pareva, da un punto di vista estetico, un film porno in cui erano state tagliate le parti interessanti, cioè il livello di recitazione e, come posso dire, la visuale del film era anche proprio esattamente la stessa. E poi volevo segnalare un episodio che mi capitò in tempi in cui probabilmente diceva ancora una sorta di volontà propedeutica, pedagogica, anche un po' così di introiettamento ideologico. Sì. E in prima media. Poi siamo passati all'introiettamento nudo e crudo. L'introiettamento in termini psicanalitico. In prima media fui condotto da una maestra sadica assieme a tutta la classe alle 10 del mattino in un cinemino parrocchiale ad assistere al film Cronaca familiare, credo tratto da Vasco Pratolini, il regista non lo ricordo. Il film è Zurlini, Valerio Zurlini. Zurlini, Notte di quiete, fatto un film bellissimo. Però voi potete immaginare una classe di decenni in piena esplosione ormonale. Certo. A vedere questo Mastroianni Macilento, mi ricordo una scena in un letto d'ospedale che durò 35-38 minuti e ci fu una specie di rivolta a un certo punto, esattamente come nel famoso episodio Potemkin degli impiegati sfigati. Cioè vi mandava attraverso il Bon di Motta che c'avevate nella cartellina, penso. Prego, scusi. Vi mandava attraverso la merendina che avevate dietro voi. No, ma ne abbiamo fatti di tutti i colori, cioè massicazione della merendina poi inserita nell'astuccio del compagno, chewing gum attaccati ai capelli, cioè tutto pur di non essere. Diciamo, l'intento dell'insegnante tempo era giusto, bestie sì, che eravate, vi faceva vedere un film legato a un sì, classico della letteratura moderna e contemporanea, quindi era giusto vi ci portasse. Forse non aveva valutato il fatto che a quell'età uno veramente ha una resistenza gonadica molto limitata rispetto all'età più matura. Giuseppe Sansonna, su questo immancabile film. Sì, ma questa è una cura a Lodovico, infatti c'è un tempo per ogni film. Però mi interessava il discorso su Romer, che è un altro dei celebrati maestri, che sicuramente ha fatto anche dei film importanti. Però, per esempio, film come Il Raggio Verde, in cui c'è tutto questo filone, poi di altro anche cinema d'oltralpe, in cui ci si siede e si parla per ore, oppure ci si vede nei bar, nei caffè parigini, si fuma e si discorre, campo contro campo, camera fissa, in eterno si parla della vacuità, di un po' di filosofia. Tu pensi, io stavo in Rai l'anno che uscì il Raggio Verde e faccio esattamente questo programma, che come portatore d'acqua del direttore conduceva lui, facevamo una puntata intera sul Raggio Verde. Io mi ricordo, dovevamo inventarci 1:40 sul Raggio Verde di radio in diretta. Telefonarono 1:30, mi sembra, 3131, un classico programma della fantastica storia della radiofonia nazionale. Una puntata 31 sul Raggio Verde, perché non si poteva non parlarne. Sì, non sì, si poteva non parlare del Raggio Verde. Ci ho visto un dialogo di 10 minuti sul vegetarianesimo di uno delle ospiti in questo tavolo, appunto, sempre con questa estetica poverissima e questa petulanza. Io ebbi un attimo dell'illusione, la mia ignoranza, allora ero giovane provinciale, che il Raggio Verde fosse una specie di raggio laser di cui ci speravo anche. Eh sì, anch'io, ma invece una cosa bestiale, fu una cosa veramente bestiale. Sentiamo Nicola, ci tiri un po' su. Sì, buongiorno, saluti a tutti. Niente, io ricordavo i film degli anni 70 di Jodorowsky, grande. Il topo e La montagna incantata, che all'epoca erano dei film molto particolari, perché trattavano di argomenti molto strani. Sacra, non so se voi... Thomas. Sì, prego. Dico, non so se voi... Sì, ma avevano dei loro cultori. Vede, Jodorowsky, come anche il grande Battiato, che è un sublime creatore di musica e altrettanto sublime creatore di film dall'incrinamento gonadico, sono dedicati a un pubblico che intravede nei film significati misteriosi, esoterici, necromantici. Quindi Jodorowsky ha visto La montagna sacra, hai capito, è il topo, capito, nulla a che fare con l'aspetto, era semplicemente dei film elucubranti fatti di nani, mostri, persone deformi, capito, via dicendo, che dovevano sottendere chissà quale sapienza nascosta. E uno andava a vedere e dice: attraverso lì troverò la pietra filosofale, la via alla realizzazione assoluta. Jodorowsky è un grandissimo mistificatore, affascinante, canagliesco. Si immagina questo ipnotizzare decine, appunto, di proseliti. Lui stesso ha un alone, come fosse un grande maestro. Fai tarocchi, adesso fai tarocchi. È un mago Telma della cinematografia. Sì, certo. Quindi, sì, sono quei personaggi, se mi permette, che diciamo si vanno a vedere, però poi è difficile interpretare le loro... Sì, ma lei ci andava motivato da un profondo desiderio di accrescimento culturale. Perché non ci andava nessuno. Quindi voleva vedere perché effettivamente non ci andava nessuno. E poi l'ha capito. Ma comunque qualche traccia lasciano. Jodorowsky, io me lo ricordo un po'. Sì, non è il peggio di quello che si è visto, anche perché trovavi sempre qualcuno che aveva questa, dice, ho visto Jodorowsky, dice, sì, allora anche tu, e sì, anch'io. La tirano fuori i tarocchi, le carte, gli incensi, le mappe della vita, lo yoga tantrico e via dicendo, e uno aveva capito che forse non aveva perso il suo tempo. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Guarda questa tazzina, che bella, è sbeccata. È sbeccata questa tazzina. Questo vaso è incrinato. Rigiriamolo. Tutto sbeccato. Tutto rovinato in questa casa. Tutto rigato, tutto rotto. Se il padrone di casa sapesse a che ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Il ladro, il padrone di casa. Ma che cazzo di frase è questa? Ma che frase è? Non è una frase, Giovanni. Che importanza può avere? Ma che frase, ma che frase, ma che significa, ma che frase è? Giovanni, non importa. Questo posacenere, guarda, è sbeccato, nascondiamolo, via. La mia teiera preferita, l'abbiamo rotta. Poi l'abbiamo senza preconcetti e luoghi comuni, in questo film devo dire che la sensazione del frantumento gonadico è anche fisica, perché se tu guardi questo film non puoi fare a meno di autofrantumarti per fare un esorcismo, uno scongiuro a quello che potrebbe rappresentare il film. È la stanza del figlio di Nanni Moretti. Io lo considero così, senza mezzi termini, un film infame, perché da un lato c'è Moretti con le sue solite idiosincrasie, nevrosine, la psicanalisi, inzuppa il pane in per tutti, e poi da lato c'è l'argomento forte che ovviamente lui, non avendo i mezzi per trattarlo, no, lo tratta in una maniera più infame possibile, più sfacciata, più terribile, perché c'è, cioè, l'avvitamento dei bulloni sulla bara del figlio, il figlio visto, tutti che piangono, una cosa fatta senza nessun tipo di pudore formale, con un cinismo smaccato. È un lacrima movie spacciato per ma magari film. Appunto, perché quelli erano film sotterranei, appunto, infami già di partenza, e quindi non avevano anche questa giustificazione di genere. Beh, qui L'ultima neve di primavera è il motivo ispiratore di questo film. Certo, sì, L'ultima neve di primavera però è più onesto, perché appunto, certo, il povero Raffaello Del Balzo viene considerato un infame, cioè veniva emarginato, ostracizzato, non gli veniva data la palma d'oro a Cannes soprattutto, nessuno avrebbe mai sognato anche di accostarlo, invitarlo a Cannes così in ultima fila. Sentiamo Vincenzo, buongiorno. Buongiorno, io credo che voi sarete molto orgogliosi di me, sia lei che Sansonna, perché io ho fatto un uso virtuoso del martellamento alle gonadi cinematografico. Oh, ci spieghi il vero motivo profondo per cui in realtà questi film qualcuno li andava a vedere? Perché allora, le spiego. Sennò sembra che parliamo soltanto noi per ammuffite esperienze vetuste. Guardi, io sono molto cinico, ho 32 anni. È giovanissimo. Quando facevo l'università, facevo scienze della comunicazione in via Salaria. Sì, ha perso anche lei un po' del suo tempo. Comunque. Moltissimo. Però l'ho sfruttato nel modo in cui giustamente adesso le spiegherò, esatto. Dal corpo docente ai bidelli lo usano in quella direzione, molte giovani fanciulle in fiore, ed essendo io molto squattrinato in quanto studente fuorisede lucano, privo di mezzi, figuriamoci, assolutamente, cosa mi sono inventato? Sono venuto a sapere che c'erano, almeno all'epoca, ma credo ci siano tuttora, delle incredibili rassegne assolutamente gratuite su tutti i maestri del cinema giapponese all'Istituto Giapponese di Cultura. Sì. Ora, il luogo presenta numerosi punti di vantaggio per lo scopo ultimo che, come avrete già detto, in questo momento mi ha aperto anche una lampadina, un'illuminazione, esatto, della mia vita familiare. Non capisco perché mio figlio pure ci vada a studiare il giapponese tutte le settimane. No, ma se vuole, guarda, posto bellissimo. Nuovi elementi di interpretazione. Lo scopo, come avrete intuito, chiaramente era l'intimidazione, insomma. Sì. Io, essendo squattrinato, andavo con additivo orientale geishico, immagino. Bravissimo. Allora, il luogo innanzitutto era geograficamente vicino alla facoltà, quindi sì, Facilmente ti seguivano. In secondo ordine era un luogo molto gradevole dal punto di vista architettonico. C'è un bel giardino zen lì, chiaramente. Basta non andarci al tramonto, perché sennò allora si passa a un altro tipo di fruizione, di intimidazione. Ecco, ma il meccanismo è perfetto, è proprio quello, perché ci beccavano anche un prete col Viagra in macchina. Spesso si beccava anche un piccolo buffet, e quindi comunque, diciamo, anche da quel punto di vista, insomma, ci si era cautelati. Anche al tempura, si tramortiva la giovane donna con due ore di film di Ozu piuttosto che di Shinya Tsukamoto, e a quel punto lei era completamente priva di difese. Quando si usciva da queste proiezioni ci si trovava a Villa Borghese, dove col favore delle tenebre, insomma, certo, lascio a voi immaginare il resto. Quindi questo credo sia un uso più che virtuoso del cinema distruggi gonadi, che consiglio a tutti. Sì, sì, era un percorso della salute, diciamo, ecco, funzionava. Assolutamente, tutto questo chiaramente essendo completamente privi di mezzi. E certo, tu. Francesco invece, Francesco, buongiorno. Buongiorno a tutti. Invece? A me piace molto il cinema, a 60 anni ovviamente ho maturato anche esperienze deludenti, o film che hanno deluso le aspettative. Però è sempre un fatto personale, no? Uno si approccia per quello che è il suo modo di vedere il cinema. Però vorrei parlare di un'esperienza collettiva che ho vissuto da ragazzo. Siamo andati a vedere Deserto Rosso. Mi ricordo che si entrò in sala, eravamo degli amici, c'è la sala era piena, c'era il solito brusio della gente che aspetta l'inizio del film, non c'era tutta la storia che c'è oggi, erano più semplici, c'era la pubblicità. Inizia il film, passa tutto il film, alla fine, finito, rimane un silenzio assoluto nella sala. Il brusio non c'era, tutta la gente si è alzata in silenzio e mestamente siamo tutti usciti dalla sala, senza scattare una parola. È stata un'esperienza quasi metafisica, indimenticabile, non mi è mai più successo. È la catarsi questa. Sì, però è un film di cui si parla molto, se ne è riparlato giorni fa per il compleanno di Monica Vitti, ha fatto anche Deserto Rosso, poverina, forse una delle... Mi fanno male i capelli, diceva in questo film, insomma, siamo nell'Antonioni che si stava già involvendo su se stesso, cioè... E su queste ceneri si è poi innestato Wenders, che oggi invece abbiamo, oggi fa la reclama dei giacconi orrendi di Ozzinali con i capelli alla Marzullo, e si chiama La linea Angeli del nostro tempo, quindi citando i suoi stessi film. Di culto. Vendono anche delle luce che ti puoi mettere dietro, non so, di plastica e polistirolo. Ma immagina il grugno di Wenders con gli occhiali alla, poi il capello. Non ho visto nessun film di Wenders perché dopo sono rimasto veramente traumatizzato e certamente ho perso dei capolavori, però mi sono dedicato completamente a film leggeri di movimento, avventure, cose che non impegnano il cervello. Ultima battuta, Paolo ricorda un film di cui si parla molto semplicemente per una immagine su tutte le copertine dei giornali. Buongiorno Paolo. Buongiorno Nicoletti. Sì, io proprio perché su tutti i giornali si parlava di questo film, sono andato a vederlo aspettandomi sfacelli dentro e fuori il cinema. Rousselui Marie è un film francese in cui noiosissimo, c'era solo una scena di una donna nuda sulla croce, una cosa del genere, cosa era? C'era una scena che rasettava la blasfemia, quindi se ne parlo molto, ma il film era di una noia abissale. Ambientato, se non ricordo male, metà del film era ambientato in un supermercato dove c'erano questi dialoghi che io sinceramente ho dato la colpa alla mia giovane età, non l'ho capito, però credo di non essere io in difetto con questo film, credo veramente che sia semplicemente è un'annunciazione ambientata ai tempi nostri. Sì, sì, ma ripeto, di una incrinatura gonadica notevole e tutta quel battage pubblicitario non ha prodotto nulla, perché all'interno della sala eravamo in 10 e fuori non c'era nessuno. Io mi aspettavo Ale di... Lo so, ma Godard è stato già citato all'inizio di questa rassegna come uno dei più grandi frantumatori, lì tentò la strada furbesca della blasfemia andando male. Grazie Fabrizio Intonti, grazie Valerio Rocchetti, grazie all'insigne Sanson, ci sentiamo domani. Alors tous deux on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.